Questa è la danza della potenza sessuale. Questa è la danza della potenza sessuale. Chi la farà, potente diverrà. E fuoco, fiamme, lapilli. Questa è la danza della potenza sessuale. Sessuale.